America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Benvenuti all'America 24, vi sto parlando dal terreno della maratona di New York, ci sono gli arrivi, o meglio, il vincitore lo abbiamo già, Jeffrey Mutai, un keniota, però ovviamente nel momento in cui c'è il vincitore poi abbiamo ancora forse un paio d'ore perché la maratona si chiude. È stata una giornata splendida, una giornata entusiasmante, ovviamente il momento in cui vi sto parlando ora è domenica pomeriggio con la conclusione, vi dicevo, di questa maratona. Dunque a Cannes, come avrete seguito dalle cronache, che c'è stato un nulla di fatto nel fine settimana, gli americani avrebbero voluto avere dettagli dagli europei, questi dettagli sono invece mancati, i mercati sono, vi dicevo, nervosi giustamente, e in qualche modo l'unica notizia è stata la notizia del monitoraggio del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia. Ma la cosa a cui sono più interessati i mercati a partire dalla giornata di lunedì e nel corso della settimana, con un giorno chiave nella giornata di domani, è la tenuta del nostro governo. Non vi nascondo che molti operatori con cui ho parlato proprio in queste ore, così per sondare un po' il loro atteggiamento nei confronti della settimana che si apre, è un atteggiamento che vorrebbe un cambiamento di governo in Italia. Si sentirebbero più rassicurati da un cambio della guardia e soprattutto dall'introduzione di un governo a larghe intese, di un governo tecnico in grado di raccogliere alcune delle sfide più importanti, per esempio di occuparsi delle pensioni di anzianità, di occuparsi di alcune delle riforme strutturali che questo governo non è riuscito ad affrontare. Però, visto che siamo in incertezza e che comunque le notizie per ora non ci sono, preferisco affrontare un argomento di cui invece possiamo essere orgogliosi, e cioè il vino. Abbiamo proprio in questi giorni a New York un evento organizzato da Wine Spectator, che è uno dei principali media di comunicazione sul vino americano, anzi fa la fortuna o la sfortuna ad un vino perché danno questi voti inflessibili, a cui partecipano 260 aziende, produttori vinicoli fra i migliori del mondo. Fra questi ci sono 45 cantine del Made in Italy, quindi un'ottima presenza la nostra, e dunque approfittiamo per parlare di vino d'America e come l'Italia ha costruito il vino in America, con uno dei nostri più autorevoli produttori, con Angelo Gaia, titolare della omonima azienda. Dunque, intanto una curiosità, perché da noi in Italia c'è sempre un atteggiamento così un po' di superiorità nei confronti del vino americano. Io, che vivo qui da molti anni, posso dire che non è così. Ci sono dei vini americani che sono straordinariamente buoni, e dunque comincio a chiederle: è vero o non è vero? Ha ragione perfettamente. Gli Stati Uniti hanno iniziato a produrre vini da qualità negli ultimi 50 anni, non hanno le varietà così diverse come abbiamo noi in Italia, ma a livello di Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, sanno esprimere dei livelli di qualità anche molto elevati. Cosa significa oggi per i produttori di vino italiani l'America? L'America è il primo mercato per i premium wines in assoluto, cioè per i vini che hanno una dotazione di qualità e di immagine più elevata e anche di prezzo più elevato. L'importanza del mercato americano è legato anche ad altri fattori: la presenza di un'industria potente e una comunicazione altrettanto potente che è dettata da riviste, non solo, per finire. Il vino americano è sicuramente anche sostenuto dalle catene alberghiere americane potenti, che specialmente in Asia aprono a getto continuo dei alberghi, e in questi alberghi ci sono dei ristoranti che sicuramente sostengono e propongono i vini americani o i vini del nuovo mondo. Quando è la prima volta che lei è venuto in America? 1972, ricordo, ero stato, prima avevo visitato Napa, che non è la Napa di oggi, perché le cantine... Quindi è venuto per lavoro comunque. Ero venuto per curiosità e lavoro, e lì avevo conosciuto subito Mondavi, avevo visitato la sua azienda. È stata una visita subito che mi ha colpito, perché avevo osservato che c'era da parte di Mondavi, del suo staff, una grande volontà a cercare di migliorare la qualità dei loro prodotti ispirandosi all'Europa. Con Mondavi, lei viene, va in California, va a Napa Valley, incontra Mondavi, cosa vi dite? C'è stato prima di tutto un'affinità culturale. Mondavi dimostrava questo grande interesse nella volontà di fare crescere la qualità dei vini americani, di quelli che produceva. C'era questo interesse suo a confrontarsi con i produttori europei. Ricordo che nel 1974 era venuto in Piemonte e mi aveva chiesto di accompagnarlo a visitare le zone più caratteristiche del dell'area del Barbaresco e del Barolo, e lui ha guardato questo paesaggio e mi dice: avete un paesaggio straordinario, avete una ricchezza incredibile, questa è una zona unica al mondo. Prima però di rientrare in macchina, lui mi dice che sentiva un ronzio nell'aria, come se ci fosse un rumore. Io sono rimasto sorpreso e allora gli chiedo qual era, che ronzio sentiva, e lui mi dice: mi pare che dormite un po' voi produttori, che non sapete valorizzarla pieno. Per me è stata una grande lezione. Ricordo che l'avevo raccontata ad alcuni miei colleghi, che magari avevano preso un po' cappello, si erano un po', non dico offesi, e dicevano, hanno detto: ma no, Mondavi pensi alle sue cose, non venga, non pretenda di venire a insegnare a noi. Però era vero, secondo me. Bene, in questi ultimi 25 anni i produttori l'hanno sicuramente fatto, hanno svolto una funzione importante e hanno saputo far apprezzare, far riconoscere anche il vino di qualità italiano un po' su tutti i mercati. Ecco, ma in Italia c'è ancora un po' di ronzio rispetto all'America? No, beh, l'America è l'America, l'Italia è l'Italia, noi abbiamo le nostre, non so se sono lacune o meno, è un paese fondato sulle corporazioni che non sono facili da smontare, un eccesso di burocrazia, di regolamentazione, però questo ha insegnato probabilmente specialmente agli artigiani, ma in generale a tutte le aziende, a doversi trovare il modo di sopravvivere. Qual è la ricchezza vera, secondo me, dell'Europa? È nelle denominazioni, nei terroir, no, principalmente è nella ricchezza di artigiani che producono uva e producono vino, che è larghissimo. Poi l'Italia, ad esempio, c'è una presenza, il 40% della produzione italiana è nelle mani delle cantine cooperative, quindi è concentrato in mani che hanno poi la possibilità di aggregarsi perché costituiscono dei consorzi di secondo grado, eccetera, certo, eccetera. Il restante 60% della produzione è suddivisa in 35.000 cantine, una cosa incredibile, che è anche una ricchezza di umanità, è una ricchezza, è un patrimonio umano straordinario, di genialità, di, certo, di idee, di... Ecco, però in America, quando noi dobbiamo dire a un americano, gli chiediamo qual è il vino migliore, subito ti dicono un vino francese. C'è ancora un po' questa cultura. Possiamo smitizzare? La Francia ha saputo lavorare cercando di far eccellere la produzione di qualità, ed è un concetto che loro hanno avuto per lungo tempo, mentre da noi è un fatto più recente, diciamo degli ultimi 60-70 anni. E negli ultimi anni, secondo me, l'Italia ha fatto dei grandi passi avanti, e ritengo che tra 10 anni sicuramente la situazione sarà ancora modificato. Un'ultima cosa, cosa le piace dell'America? Quando vengo in questo paese non so se ci resterei a vivere, ma tutte le volte che vengo imparo qualcosa di nuovo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno con il suo ultimo single We Found Love. Rihanna è di nuovo in vetta alla classifica dei 100 brani più popolari d'America. È l'11ª volta, pensate, che la cantante raggiunge questo traguardo, mentre il record assoluto spetta ai Beatles con 20 brani al numero 1. Comunque, di Rihanna, We Found Love. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.